Wonky. E tutto iniziò con una giostra di flash, con una giostra di flash. Tutto fu un flash, tutto fu un flash. Un triangolo flash, un triangolo aureo in flash. Disgiunto a te, no. È tutto un flash, uno specchio dinanzi a me. Guarda te, la nostra lune. Te guardi lui, lui guarda me. Tra i miei sguardi, chiudo gli occhi, poi flash dentro me, lo tengo, dove è partito, dov'è partito il flash, torna a me, mistero d'ombra, un sole nero poi alba in fonda, time to the left side of sinner, lieve e angelica sposa totemica, angelica sposa totemica, tabù totemica, tabù sacrosanta figa, sacrosanta figa, vestita bianca, vestita bianca, come una sposa sacrosanta, come una figa, sposa sacrosanta figa. Ancora oggi profumo d'anima in parte, un faro nella notte dell'anima puntante, nel bianco nave che parte, armate delle ombre ad ombro, mentre spendo, splendo, zuma di me, distanza tra ciò che credo e sarò, genio della lampada, strofinala, con una pic strofinala, capirete dopo morto la mia opera aurea, capirete dopo morto opera aurea, per aurea. Tutto un flash, uno specchio dinanzi a me. Guarda te, la nostra lune. Guardi lui, lui guarda me. Rammini, sguardi stupendi. Chiudo gli occhi poi, flash dentro me. Ora dentro me splende. Egoista di te. Che passasti da lui poi dentro me. Attraversassi lui. Dove è partito il flash? Torna a me. Mistero d'ombra, un sole nero poi alba in fonda, time to left side of sinner, time to flash, lieve e angelica sposa totemica, tabù di lirica, sacrosanta figa, figa ancora oggi, profumo d'anima, un faro nella notte dell'anima. Punti neri nel bianco, salpano nel bianco, armate delle ombre, mentre spendo stupendo ombro, zuma di me, distanza tra ciò che credo e sarò, genio della lampada, tu strofinala, quella pedra sopra nel foglio, sono creduto un genio, adesso sono il genio della lampada, genio della lampada, la lampada, la lampada, la lampada, la lampada, la lampada, la lampada, la lampada, la lampada, la lampada, la lampada, la lampada, la lampada, la lampada, la lampada, la lampada, la lampada, la lampada, la lampada, la lampada, la lampada, la lampada, la lampada, la lampada, la lampada, la lampada, la lampada, la lampada, la lampada, la lampada, la lampada, la lampada, la lampada, la lampada, la lampada, la lampada, la lampada, la lampada, la lampada, la lampada, la lampada, la lampada, la lampada, la lampada, la lampada, la lampada, la lampada, la lampada, la lampada, la lampada, la lampada, la lampada, la lampada, la lampada, la lampada, la lampada, la lampada, la lampada, la lampada, la lampada, la lampada, la lampada, la lampada, la lampada, la lampada, la lampada, la lampada, la lampada, la lampada, la lampada, la lampada, la lampada, la lampada, la lampada